Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Da Presidente di Regione le dico che noi di quelle risorse ne abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno presto, anche per fare ripartire l'economia. Io non sono un economista, ma mi hanno sempre spiegato, fin da bambino, che in epoche recessive servono misure anticicliche a partire da un gigantesco piano di investimenti pubblici. E quello parte anche dalla sanità, ci mancherebbe altro. E poi c'è il tema delle infrastrutture su cui potremmo aprire un bel capitolo. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'avete sentito, Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché esponente di livello del Partito Democratico, presidente della Conferenza delle Regioni, oggi alla 7, che ritorna sulla questione del MES. Diciamo l'oggetto del contendere, il meccanismo di, europeo di stabilità, l'oggetto del contendere tra PD e Movimento 5 Stelle. Da ieri diciamo che questo scontro in atto all'interno del governo è salito di livello e ci dovrebbe essere un vertice a Palazzo Chigi, appunto, che prova a riannodare i nodi, insomma, diciamo i punti, le cocche, come vogliamo chiamare, della maggioranza, con un vertice sul decreto semplificazioni. Però diciamo che resta ancora questo l'oggetto del contendere, il MES. Vedremo insomma come procede questa faccenda, che appunto si tratta di questi fondi europei, certamente non gratuiti, che dovranno essere restituiti con naturalmente delle agevolazioni molto forti, che dovranno essere spesi per la sanità, ma che insomma non trovano d'accordo il Movimento 5 Stelle, mentre il PD ieri con Zingaretti ha insistito sul fatto che bisogna smettere di tergiversare, mentre dall'altra parte Salvini e Meloni, anche loro totalmente contro il MES, e invece Berlusconi, quindi c'è una piccola spaccatura anche all'interno della opposizione, del centrodestra, sarebbe favorevole. Comunque, questo in sintesi lo sentirete nel corso della prima parte della puntata, mentre poi approfondiremo argomenti come, ancora sul coronavirus, l'esperimento così importante di Vo' Euganeo, una delle prime due zone rosse in Italia, in Veneto, come è stato gestito, talmente bene che è stato pubblicato sulla prestigiosissima rivista scientifica Nature. Ne parleremo proprio con il suo ideatore, che è il professor Crisanti dell'Università di Padova. Poi c'è l'allarme CISL sulla scuola. Si dice che appunto c'è il rischio che ci siano almeno 85.000 cattedre vacanti per settembre, quindi la scuola non solo alle prese con tutti i protocolli di sicurezza, ma anche con il supplentismo. Vedremo un po', ne parleremo direttamente con la segretaria generale della CISL Scuola. E poi l'Unione Europea, che apre, ha deciso di aprire le frontiere a una quindicina di paesi extra Schengen, ma non agli Stati Uniti, e subito l'ira di Trump. Ma direi, prima di approfondire come sempre alcuni argomenti con gli ospiti, ci sarà la sintesi della giornata a momenti, per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp, in particolare WhatsApp al 349-238-6666. I dati sul coronavirus in Italia sono 142 oggi nuovi contagiati, 23 morti in un giorno. E all'ospedale di Alzano 110 polmonite sospette tra novembre e gennaio, indaga la procura. Il caso di Vo' Euganeo pubblicato su Nature, a Effetto Notte il professor Crisanti, che ha ideato l'esperimento e lo ha portato avanti. Covid e frontiere europee, da domani l'Unione apre per 15 paesi, Cina compresa, esclusi gli Stati Uniti, ma l'Italia impone la quarantena. E in America il virologo Fauci dice che gli Stati Uniti rischiano 100.000 nuovi casi al giorno. Berlusconi andava condannato, l'audio del giudice suscita le proteste di Forza Italia, Tajani dice è stato trattato come Dreyfus, ma dalla Cassazione arriva la conferma che si è trattata di una condanna legittima. Calcio, Serie A maschile, in campo Lazio-Juventus, bianconeri a Genova in aereo per evitare il traffico sulle autostrade liguri. Partiamo quindi dai dati aggiornati dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Sono 142 oggi i nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri quando erano 126. Il numero totale dei casi sale così a 240.578. Le vittime invece fanno segnare un aumento, sono 23 nelle ultime 24 ore dopo le 6 di ieri in tutta Italia. Complessivamente i morti in Italia salgono a 34.767, appunto secondo i dati del Ministero della Salute. 7 le regioni senza nuovi casi sono Marche, Trentino, Alto Adige, Puglia, Friuli, Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise. Ed emergono nuovi particolari sulla possibile diffusione del virus ad Alzano Lombardo, in Lombardia, vicino Bergamo, già da novembre, su cui indaga appunto la Procura di Bergamo. Oltre 1.000 guariti in 24 ore in Italia, ma aumentano i contagi, 142 contro i precedenti 126 e purtroppo anche le vittime, 23 rispetto alle 6 del giorno prima. Tra queste, 4 sono in Lombardia, regione che ha registrato 62 nuovi casi. 4 decessi, ma solo 8 nuove infezioni in Veneto, da dove arrivano nuovi spunti sulla dinamica di trasmissione del virus grazie ad uno studio condotto sul caso del cluster padovano di Vo Euganeo, che è stato pubblicato sulla rivista Nature. Condotta fra gli altri dall'epidemiologo Andrea Crisanti, l'indagine indica che oltre il 40% delle infezioni non dà sintomi e che non risultano differenze significative di carica virale tra sintomatici e asintomatici. I bambini poi si confermano in qualche modo resistenti all'infezione pur convivendo con familiari ammalati. I risultati dello studio sul cluster padovano, nel giorno in cui a far parlare di sé è anche il comune bergamasco di Alzano Lombardo, nel cui ospedale tra gli scorsi novembre e gennaio ci sono state 110 polmoniti sospette, vale a dire causate da un agente non specificato. Ad avere richiesto gli atti è il consigliere lombardo di Azione Nicolo Carretta, che ora intende continuare l'indagine in tutta la bergamasca e in tutta la regione per trovare, spiega, il primo focolaio che potrebbe non essere stato Codogno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, come vi dicevo, il professor Crisanti sarà ospite qui a Effetto Notte. L'Unione Europea intanto riapre da domani le sue frontiere esterne a 15 paesi terzi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay. C'è anche la Cina, soggetta alla conferma però della reciprocità, fuori invece gli Stati Uniti. La lista poi verrà aggiornata ogni 2 settimane in base a criteri legali a situazione epidemiologica e misure di contenimento. L'ira del presidente americano Trump, che pensa a una rappresaglia chiudendo le frontiere agli europei e scatenando una nuova guerra dei dazi, ma rischia di trovarsi isolato. L'Italia intanto sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l'isolamento fiduciario, cioè la quarantena e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai paesi extra Schengen. E prosegue la trattativa a livello europeo sui fondi per il rilancio dell'economia post-Covid. L'appuntamento in Europa a metà luglio, ma in Italia ancora stallo sul MES. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve la telefonata della cancelliera Angela Merkel, che inizia la presidenza tedesca di turno al Consiglio europeo. Al centro della conversazione anche la Next Generation e il nuovo quadro finanziario pluriennale. A Roma però un vertice a Palazzo Chigi viene convocato per sciogliere le tensioni sul fondo Salva Stati, con la maggioranza spaccata tra il no dei 5 Stelle e il sì del PD. I leader del movimento avvertono Conte sul rischio scissione, mentre i Dem sono in pressing col segretario Nicola Zingaretti, che chiede di smetterla di tergiversare e di utilizzare i fondi europei. Il premier vorrebbe rimandare tutto a settembre proprio per timore che il governo possa cadere, ma gli occhi sono puntati al voto del 15 luglio al Senato, alla vigilia del Consiglio europeo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Super bonus al 110% anche per le seconde case, ad esclusione delle abitazioni signorili, delle ville o castelli e per le villette a schiera. Lo prevede un emendamento al decreto rilancio super bonus che scatta domani, 1 luglio. E a giugno i prezzi al consumo sono cresciuti in Italia solo dello 0,1% rispetto a maggio. Ancora debole dunque l'effetto delle riaperture post-lockdown sull'economia e per il secondo mese consecutivo i prezzi al consumo scendono rispetto a un anno fa. Inflazione in calo per 2 mesi consecutivi in Italia, meno 0,2% sia a maggio che a giugno rispetto allo scorso anno. Lieve aumento invece nella variazione mensile dal meno 0,1% di maggio al più 0,1% di giugno. Pesano sull'indice 2 fattori contraddittori. Da una parte il crollo del prezzo del petrolio, che ha spinto al meno 12% i prezzi dei beni energetici in Italia, seppure in lieve aumento rispetto a maggio. Dall'altra parte i prezzi dei beni alimentari, che continuano invece a crescere, più 2,5% annuo, soprattutto quelli freschi, più 4,1%. Secondo Coldiretti, qui a pesare è soprattutto la pazza primavera, che ha portato gelo, siccità e infine grandine, riducendo i raccolti di frutta fra il 30 e il 60%. Il direttore del servizio Istat Prezzi al Consumo, Federico Polidoro. Non deve ingannare quel dato negativo. L'inflazione di fondo, cioè quella che depura il dato generale da energetici alimentari freschi, sta più 0,7. Non è una grande inflazione, ma è un'inflazione abbastanza significativa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla scuola c'è l'allarme della CISL. Sono oltre 85.000 le cattedre vacanti per l'anno scolastico 2020-2021, quasi 20.000 in più dello scorso anno, dice Maddalena Gissi. Avremo un inizio anno complicato alla ricerca di supplenti. Allora sarà ospite la segretaria nazionale della CISL Scuola qui a Effetto Notte tra poco. Processo Mediaset contro Berlusconi per frode fiscale. Fu un plotone di esecuzione. L'ex premier sarebbe stato trattato ingiustamente e condannato a priori in una vicenda guidata dall'alto. Lo avrebbe detto il relatore in Cassazione, il magistrato Amedeo Franco, in una registrazione resa pubblica dal giornale Riformista, che ha scatenato una dura polemica politica con Forza Italia, che chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Non fu un verdetto politico quello emesso dalla Cassazione il 1 agosto del 2013 nel processo sui diritti Mediaset, che costò il seggio da senatore a Silvio Berlusconi. Lo sottolineano alte fonti della Cassazione, rilevando che non solo il fascicolo venne assegnato a un collegio già costituito ben prima dell'arrivo del Faldone da Milano, ma anche che la decisione fu presa in piena concordia dal collegio e che non venne depositata alcuna busta con opinioni dissenzienti. Depositato in Commissione Giustizia alla Camera un disegno di legge sull'omofobia. Un testo di pochi articoli a firma del deputato del PD Alessandro Zan, relatore del provvedimento, che sintetizza i disegni di legge degli onorevoli Boldrini, Scalfarotto, Perantoni e Bartolozzi. La legge, che punta a modificare gli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, è attesa da quasi 25 anni. La prima proposta di legge che affrontava la questione risale al 96 ed era stata presentata da Nichi Vendola. Il provvedimento modifica così la legge Mancino del 25 giugno 93, estendendo agli episodi d'odio fondati sull'omofobia e sulla transfobia i reati già previsti nel codice penale, aggiungendo alla discriminazione razziale, etnica e religiosa quella fondata sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Si prevede inoltre l'istituzione della Giornata Nazionale contro l'omotransfobia il 17 di maggio e l'istituzione di un fondo dedicato ai centri antidiscriminazione e case rifugio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso gli Stati Uniti potrebbero arrivare a vedere almeno 100.000 nuovi casi al giorno di contagi. Questo è l'allarme lanciato in congresso dal virologo Anthony Fauci, che ha sottolineato come l'impennata attuale dei contagi in numerosi stati americani mette a rischio l'intero paese. Intanto New York raddoppia il numero degli stati americani cui i residenti dovranno sottoporsi alla quarantena una volta arrivati nella Grande Mela, lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo. La Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong. La mossa ha causato la dura opposizione di Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna ed è vista come una stretta all'ampia autonomia di Hong Kong, prevista al momento del passaggio della città dalla sovranità di Londra a quella di Pechino. La legge segna la fine della Hong Kong che il mondo conosceva, con poteri spazzati via e una legge indefinita. La città diventerà uno stato di polizia segreta, ha scritto su Twitter l'attivista pro-democrazia Joshua Wong. Di nuovo in Italia, il lockdown e il rallentamento dell'economia impattano in maniera significativa sul mercato dei veicoli industriali e commerciali. Crolla il numero delle immatricolazioni, sale l'età media dei mezzi. Non solo il mercato delle auto, anche quello dei veicoli industriali soffre fortemente le conseguenze del rallentamento dell'economia e al di là di una timida ripresa in atto in queste ultime settimane, i primi 5 mesi dell'anno hanno fatto segnare un crollo, meno 29,6%, segno meno ancor più rilevante per i veicoli commerciali, cioè sotto le 3 tonnellate e mezza, meno 41,8%. Franco Fenoglio è il presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Ricordiamo tutti che il parco circolante è il più vecchio d'Europa e questo sarà un problema anche per il futuro. Per il trasporto, al di là delle enunciazioni e del fatto che non tutti ringraziati il trasporto, hanno tutti detto che erano assimilabili quasi a degli eroi, purtroppo ce ne siamo già dimenticati, nessun provvedimento è stato preso e i trasportatori sono veramente molto molto in crisi. Quindi ci aspettiamo un settembre molto molto complicato e molto difficile. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di mascherine e guanti e quanti rifiuti potrebbero creare. Una produzione complessiva di rifiuti, da mascherine e guanti, appunto fino a fine 2020, tra le 160.000 e le 440.000 tonnellate, con un valore medio di 300.000 tonnellate. Queste le dimensioni del volume che stimato dall'ISPRA in occasione del lancio della campagna per il corretto smaltimento di questi dispositivi anti-Covid, realizzata dal Ministero dell'Ambiente con la Guardia Costiera, con lo spot che ha come testimonial Enrico Brignano, che ha dato il suo contributo gratuitamente. Per chiudere abbiamo il calcio con il nostro Dario Ricci. Caro Dario, partite in corso in sì, Serie buonasera. A maschile. Sì. Ciao Dario. Eh sì, come sai ci sono le due prime della classifica in campo questa sera, in particolare c'è la Lazio che a Torino, e siamo al 38esimo del secondo tempo, è in vantaggio per 2-1 e quindi prova a mettere pressione, anzi sicuramente ci riesce, alla Juventus, che invece alle 21.45 scende in campo a Marassi contro il Genoa. Partita contro il Torino che la Lazio sta conducendo, ma è stato il Torino ad andare in vantaggio già al quinto minuto con un calcio di rigore di Belotti, poi nella ripresa la rimonta biancoceleste con Ciro Immobile al 48esimo, quell'Immobile che aveva proprio causato il rigore granata, e poi al 72esimo la conclusione di Parolo deviata da Bremer, ma la rete è sicuramente del centrocampista laziale, quindi Lazio in vantaggio per 2-1 quando siamo al 39esimo della ripresa. Staremo a vedere se finirà così e poi quale sarà l'eventuale risposta della Juventus, ma tanto ci aggiorniamo più tardi. Ce lo direi tu dunque, Dario Ricci. Vedo che Lorenzo da Terni al 349-238-6666, numero che vi ricordo per WhatsApp, dice: ascolto effetto notte quando c'è il calcio solo per ascoltare Serie A maschile. Grazie Roberta, dice Lorenzo, certamente, ma apprezza Lorenzo, è specifico, come si specifica calcio femminile si specificherà anche calcio maschile, giustamente. A tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito quindi le notizie più importanti, come sempre il riassunto vi faccio all'inizio della puntata. Roberta Giordano sempre con voi, adesso invece per accompagnarvi insieme agli ospiti attraverso l'approfondimento di temi che sono in primo piano, e tema per antonomasia purtroppo in questi mesi così pesanti ovviamente è sempre stato il coronavirus. Del resto la pandemia ha tenuto a lungo in ostaggio le nostre vite, ha fatto tantissimi morti e ancora tiene in ostaggio tanta parte del mondo, anche noi tra l'altro non possiamo dirci fuori del tutto. E vi voglio riportare all'inizio dell'emergenza in Italia. Ricordate che i primi focolai ufficiali almeno sono stati quello di Codogno in Lombardia e Voeuganeo in Veneto, sono stati i primi due comuni italiani in cui è stata decretata la famosa zona rossa, no? Come le cose poi siano andate, questa è cronaca conosciuta, qui non vi ho mai abbandonati, quindi abbiamo seguito giorno per giorno insomma quello che è successo in particolare nel nostro paese e non solo. La Lombardia, per una grande sfortuna, ma anche per eventuali errori, eventuali responsabilità che dovranno essere accertati, sui quali si sta indagando, è diventata la regione più colpita, no? Con più malati e più morti, mentre in Veneto è andata diversamente, tanto che il caso di Voeuganeo, per come è stato gestito, è diventato un caso che fa scuola, tanto che i risultati dell'esperimento dello studio di Voeuganeo, cioè come è stata gestita la situazione che ha permesso lo spegnimento di un focolaio che poteva essere potenzialmente devastante, sono stati pubblicati oggi sulla rivista scientifica più prestigiosa, più blasonata al mondo, che è Nature. E a ideare, portare avanti questo esperimento è stato il professor Andrea Crisanti insieme a Ilaria Dorigatti dell'Imperial College di Londra. Saluto con molto piacere il professor Andrea Crisanti. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera. Ricordo, già professore dell'Imperial College di Londra, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova e consulente della Regione Veneto, nonché uno dei fari anche per noi dell'informazione che abbiamo seguito in tutti questi mesi così pesanti. Quindi professore, intanto un bel riconoscimento, mi sembra, no? Ma sì, siamo io e tutti i collaboratori siamo chiaramente molto contenti e soddisfatti, ma siamo ancora più contenti e soddisfatti che abbiamo messo in pratica l'insegnamento che appunto derivava dall'analisi dei risultati subito. Noi abbiamo immediatamente comunicato alla stampa, abbiamo comunicato al Ministero, abbiamo comunicato a tutta la comunità scientifica internazionale quelli che erano i risultati, perché li ritenevamo di grandissima rilevanza. Infatti, professor Crisanti, quindi se lei dovesse dire in sintesi qual è stato, quali sono stati gli elementi, l'insegnamento principale che insomma questo esperimento ha portato, quindi per insegnare al mondo. Il principale è che c'era una grandissima percentuale di persone asintomatiche che erano potenzialmente in grado di trasmettere. Quindi asintomatiche, Asintomatiche. Il secondo insegnamento è che se si individuano tutte le persone infette e si isolano tutte le persone infette, è possibile che gli altri continuino una vita normale, perché non dimentichiamoci che poi la zona rossa era chiusa, sì, ma tutti quanti potevano muoversi e andare dappertutto, tranne le persone che erano positive e i loro familiari e i contatti. E non solo, ma facendo questa, il secondo campionamento abbiamo identificato eventuali persone che erano sfuggite e abbiamo voluto ricostruire tutta la trama dell'infezione e della trasmissione, però al tempo stesso abbiamo ottenuto un isolato unico, cioè la trasmissione si è bloccata, poi non c'è stato più nessun caso per tutta la durata dell'epidemia. E quindi questo ci ha insegnato che se identificavamo presto tutte le persone che erano infette facendo tamponi alla cerchia di amici, alla cerchia di parenti e vicini di casa, era possibile spegnere il focolaio. Professor Crisanti, è il grande insegnamento. Infatti voi avete fatto da subito tamponi test a tappeto, perché non è stato adottato lo stesso metodo in Lombardia o non viene copiato anche altrove? Cosa ci sono? Ritardi, miopia politica, rivalità accademiche? Qual è la questione? Ma no, guardi, io penso che sia tutto un problema di capacità e allo stesso tempo di tempestività. Capacità nel senso che molte regioni italiane non avevano la possibilità di fare tamponi, perché hanno dovuto aspettare che varie industrie li producessero e li mettessero in commercio. Viceversa, noi abbiamo avuto fin dall'inizio optato per una soluzione di test fatti in casa e sviluppati da noi, che ci ha permesso di essere completamente indipendenti dalle agenti. La seconda cosa è come è strutturato il sistema sanitario regionale. In Italia le regioni hanno totale autonomia e quindi modellano il sistema sanitario a seconda delle esigenze, quello che loro ritengono le priorità, e la regione Lombardia si è trovata completamente scoperta dal punto di vista dell'organizzazione territoriale, dei centri epidemiologici e di sanità pubblica, e questo sicuramente può essere, questa organizzazione può essere estremamente valida se uno è tratta pazienti con altre tecnologie e con sistemi diagnostici avanzati, ma sicuramente non è la struttura migliore per far fronte all'epidemia. Professor Crisanti, invece, a proposito di Alzano Lombardo, no? Insomma, se ne sta parlando da diverso tempo, comune della Val Seriana, e con tutto quello che poi è successo in quelle zone, Bergamo, i tantissimi morti, le immagini che non scorderemo mai dei camion che di notte portavano le bare, camion militari anche fuori dalla regione. Oggi ulteriormente vengono fuori altri elementi che dicono che ci sono state una serie di polmoniti strane in quelle zone, Alzano Lombardo in particolare, fra novembre e gennaio, proprio nell'ospedale di Alzano Lombardo, che adesso è la sua gestione all'interno, al centro di un'inchiesta della Procura di Bergamo. Lei che cosa pensa di questa vicenda? Ma guardi, la vicenda in particolare di Alzano Lombardo, come immaginare, non è che le posso dire molto. Però posso fare alcune considerazioni riguardo a polmoniti atipiche o non diagnosticate che si sono verificate in ottobre, novembre, dicembre e anche in gennaio, che si sono verificate anche in Veneto. Ora noi siamo il centro di riferimento di tutta la regione per l'influenza, quindi di fatto tutte le polmoniti che non vengono diagnosticate o che si sospetta siano dovute a influenza si fa il tampone e vengono analizzate da noi per la presenza del virus di influenza, e noi li conserviamo tutti. Quindi noi abbiamo conservato quest'anno circa 5.000 tamponi effettuati a vari pazienti con polmoniti atipiche o polmoniti di cui non si capiva la diagnosi, e negli ultimi mesi li abbiamo ritestati tutti questi pazienti. E devo dire che i primi pazienti con infezione da Covid si incominciano a vedere verso febbraio, quindi io non credo che in Italia sia arrivato così presto. Non crede lei, professore? Penso che in Italia sia arrivato. Anche i modelli matematici fatti sui dati di Covid, che sono probabilmente più completi che ci sono nel mondo, da questo punto di vista indicano l'entrata del virus nella comunità di Bo tra la fine della terza e l'inizio della quarta settimana di gennaio. Lei ritiene? Lei consideri che poi che al 21 febbraio, quando c'è stato il primo caso, c'erano 89 persone positive al tampone. Poi noi abbiamo completato la serologia proprio un mese fa e abbiamo trovato altre 63 persone che non sono state mai positive al tampone, ma erano positive agli anticorpi. Questo significa che queste persone si erano ammalate e guarite prima del primo paziente che è andato in ospedale. Quindi in totale 150 pazienti, considerando le caratteristiche di trasmissione del virus, quindi è possibile possibile risalire più o meno con una certa precisione a quando il virus è entrato perlomeno nella comunità di Vaud. Probabilmente in Lombardia è entrato, probabilmente, forse magari una settimana prima o poco prima, insomma, quindi penso che poi quando avremo fatto tutti quanti i calcoli bene, avremo una visione di tutta quanta la diffusione del virus, probabilmente verrà confermato che il virus è entrato in Italia intorno alla seconda settimana di gennaio. Ogni anno ci sono polmoniti di cui non si riesce a fare la diagnosi perché magari il tampone è negativo, oppure perché magari non si hanno i reagenti giusti. Professor Crisanti, lei sa che 10 scienziati hanno scritto una lettera, alcuni sono stati anche ospiti qui a Effetto Notte, e dicendo che praticamente in sintesi il virus è clinicamente scomparso, e qui qualche componente di questa decina di scienziati, tra cui ci sono Zangrillo della San Raffaele di Milano, Bassetti del San Martino di Genova, Remuzzi dell'Istituto Mario Negri di Milano, hanno detto praticamente che altri colleghi, ho chiesto effettivamente, ma chi sono, per esempio Crisanti e Galli, ha detto di sì, fanno del terrorismo, a dire che invece bisogna sempre... poi le chiedo anche, ma noi comuni mortali, a chi dobbiamo affidarci? Come dobbiamo comportarci? Di cosa dobbiamo convincerci? Io lo so, io invito Zangrillo e tutti quanti a condividere con la comunità scientifica, come ovviamente abbiamo fatto noi, i risultati, così che possiamo discuterli. Invece si sono limitati a fare dei proclami con i quali purtroppo non possiamo confrontarci, perché su un proclama non ci si confronta. I ricercatori si confrontano sui dati. Guardi, la scienza è misura, la scienza è controllo, la scienza è dibattito sulle misure, purtroppo. E loro però dicono noi siamo clinici che vediamo negli ospedali, appunto, guardi, le terapie intensive, che non arriva più nessuno così conciato, malconcio, insomma, è così grave. Questo probabilmente è vero, ma i clinici dovrebbero limitarsi a fare i clinici e non gli epidemiologi. Guardi, il virus circola, abbiamo centinaia di casi al giorno in Italia, sono sicuramente casi molto meno gravi, la maggior parte dei quali sintomatici, quindi sicuramente il virus viene trasmesso ancora in Italia e prevalentemente viene trasmesso da asintomatici. Da asintomatici. Sa, anche su questa cosa degli asintomatici, la confusione anche generata dall'OMS, che insomma qualche granchio forse l'ha preso in questi mesi. Non ne parliamo, penso che sbagliato o non sbagliabile. Comunque guardi, il problema è soltanto una questione di carica virale. In questo momento c'è una carica virale più bassa, usiamo le mascherine, un po' fanno distanziamento sociale, ci aiutano le condizioni climatiche che non favoriscono la trasmissione, e quindi chiaramente una persona, se si infetta con una carica virale bassa. Quindi a lei non la preoccupano più di tanto, professor Crisanti, in questo momento i focolai che ci sono da nord a sud in Italia? Almeno... Non mi preoccupare, come? Che mi preoccupano? Certo, mi preoccupano. Infatti io ho detto sempre che non bisogna abbassare la guardia, anzi, i focolai che ci sono in Italia sono la testimonianza che il virus invece è attivo e si trasmette. Sicuramente quello che voglio dire è che queste manifestazioni anche di socialità e di assembramento che vediamo non creano una grande diffusione, appunto perché ci troviamo in condizioni climatiche favorevoli. Cioè estate, cose, c'è un'aria leggera, siamo all'aperto. Esatto, se faremo le stesse cose a novembre, dicembre, gennaio, non credo che ci saranno perdonate. Quindi, professore, secondo lei soltanto il vaccino potrà liberarci da questo incubo? Come vediamo in prospettiva, appunto, i prossimi mesi, l'autunno, l'inverno? Guardi, penso che ci libererà da questo incubo la capacità di isolare e circoscrivere immediatamente i focolai. Questa è la cosa che sappiamo fare e che dobbiamo e faremo. Come dicono gli inglesi, we must, we will. la seconda cosa è chiaramente dobbiamo investire in vaccino. Ora però, guardi, il vaccino è una cosa molto complicata da sviluppare. Non è che non vorrei che sotto questa spinta si prendessero delle scorciatoie per poi ritrovarci senza, appunto, gli elementi e dati da giudicare. Guardi, la corsa che c'è stata a utilizzare tutti questi farmaci in questi pazienti ha generato una confusione pazzesca. Sono stati fatti dati quasi tutti per uso compassionevole, non è mai stato fatto nessun trattamento con Quindi non si è capito praticamente nulla. Siamo a posto. Non vorrei che col vaccino si prendesse lo scorciatoio e che ci portassero di nuovo a questa situazione, ecco, perché purtroppo sotto l'incalzare dell'epidemia, della crisi, del dramma, sono state date. Guardi, io non è che sto criticando, perché chiaramente in questa condizione uno prova tutto, però bisogna provarlo nel modo giusto, ecco. Bisogna provarlo per trarre le informazioni. Se io curo una persona e questo gli do un farmaco e questa persona a un certo punto sembra migliorare, se non ho un termine di paragone, come faccio a dire che questa persona è migliorata perché gli ho dato un farmaco o sarebbe in ogni caso migliorata? Ma noi ci troviamo di fronte a centinaia di situazioni di questo tipo in questo momento. Professor Crisanti. La maggior parte dei dati sulla terapia sono utilizzabili. Senta, adesso come se non bastasse emergono nuovi timori per nuovi virus. C'è un nuovo virus scoperto in Cina, isolato nei maiali, simile all'influenza H1N1, potenzialmente pandemico, e potrebbe non essere l'unico rischio, l'unica minaccia a livello mondiale, perché pericoli, leggo, potrebbero arrivare anche da agenti patogeni trasmessi dalle zanzare. Professore, ci dica qualcosa lei. Le zanzare si sa quello che trasmettono. Ecco, massimo la malaria, che purtroppo fa vittime ancora nel paese del terzo mondo. Sì, trasmettono la febbre gialla, trasmettono dengue, trasmettono encefalite. Le zanzare quasi causano circa 400 milioni di malattie all'anno, altro che Covid. E quindi, vabbè, quello è tutto un altro discorso. E poi per quanto riguarda l'influenza, è una problematica a cui ci confrontiamo ogni anno. Ecco, sull'influenza però c'è da dire che siamo molto preparati. I ascoltatori devono sapere che esistono tutta una serie di laboratori sentinella sparsi nel mondo che sequenziano continuamente ceppi di virus per influenzali, per capire bene quali si selezionano, quali sono differenti da quelli della stagione prima, per preparare in tempo i vaccini. Cioè, sulla influenza esiste veramente una rete. Siamo preparati, almeno quello. Siamo molto preparati sull'influenza, questo voglio rassicurare. Guardi, in genere compaiono sempre nuove varianti, più o meno magari queste sono portate diciamo verso... proprio probabilmente verso aprile maggio, quando compaiono nuove varianti inizia immediatamente la produzione di vaccini. Quindi noi ogni anno quando facciamo il vaccino dell'influenza lo facciamo sempre aggiornato, rete di laboratori, diciamo, ecco. Sì, perché questa rete di laboratori ha individuato in tempo quali sono le varianti che possono infettare le persone che non sono protette perché sono diverse dalle varianti dell'anno prima. Quindi ecco, questa diciamo è stato fatto uno sforzo mondiale gigantesco per fare questa cosa. Ecco, poi la lascio, professore, leggo solo questo messaggio per dire a volte agli ascoltatori veramente passano da una spirale di incubi agli altri, dicono: e se in ottobre arrivasse un'epidemia di tifo fulminante? Ecco, questo non lo vogliamo immaginare. Cominciamo a confrontarci col coronavirus in autunno e inverno. Ecco, una cosa per volta, se si spera almeno, perché poi piove sul bagnato, insomma, varie frasi fatte. Professore Andrea Crisanti, ancora complimenti e a presto. Allora, buon lavoro nel frattempo. Grazie a voi. Grazie. Professore, grazie. Adesso ci lasciamo brevemente per una pausa di riflessione, come sempre. Qualche ascoltatore dice la telefonata non era chiarissima, però a volte raggiungiamo i nostri ospiti nei posti più remoti. Era all'estero il professor Crisanti, probabilmente non con una linea diciamo particolarmente efficace, ma credo che le cose essenziali si siano capite bene. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sono tante le notizie e ne stiamo approfondendo qualcuna con gli ospiti. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi. Abbiamo avuto sino a poco fa il professor Andrea Crisanti, già professore dell'Imperial College di Londra, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia dell'Università di Padova, consulente come sapete dall'inizio della pandemia della Regione Veneto, che ha pubblicato su Nature il suo studio, il caso, l'esperimento che sta facendo scuola di Vaux Euganeo. Adesso invece passiamo al tema della scuola. Abbiamo parlato molto, in particolare in questi giorni si attendeva l'annuncio della ministra dell'istruzione Azzolina sull'inizio della scuola a settembre, sapete che il 14, e poi anche sulle linee guida tanto attese. E ieri poi c'è stata la ministra Bonetti qui per la famiglia e per le pari opportunità, che fra le altre cose ha parlato anche dei più piccoli. Oggi arriva intanto l'allarme della CISL Scuola, che dice che a settembre ci potrebbero essere 85.000 cattedre scoperte, esattamente 85.150 le cattedre vacanti per l'anno scolastico 2020-2021. Si tratta di un vero record. E quindi subito coinvolgo Maddalena Gissi, che è segretaria generale della CISL Scuola. Buonasera Gissi. Buonasera, benvenuta. Senta, quindi c'è effettivamente questo rischio per settembre, addirittura più di 85.000 cattedre scoperte, come mai? Sicuramente saranno tante di più. Questi sono i posti residui dopo il movimento e quindi dopo la mobilità del personale docente, questi sono posti e sono cattedre vacanti utili per le assunzioni nei ruoli. A queste poi si aggiungono tutti i posti che annualmente vengono assegnati specialmente su sostegno e di solito sono intorno ai 70.000, poi si aggiungono tanti altri posti autorizzati in organico cosiddetto di fatto, e sono più o meno intorno ai 25-30.000, quindi se i numeri già residui di solito gli altri anni sono un po'... sono sempre tanti, ma non come quest'anno. Quest'anno abbiamo avuto un incremento forse di più di 20.000 posti, Gissi, in confronto allo scorso anno. Se lei dovesse dire, per spiegare anche alle persone, sì, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, come si è arrivati al fatto che quando ricomincia la scuola a settembre ci sono 85.000 cattedre scoperte? Come è possibile? Che sono la prima parte di quello che troveranno le famiglie e i genitori. Allora, si arriva con una mancata programmazione, un'errata programmazione. Le faccio l'esempio di quest'anno. Quest'anno il governo ha autorizzato per i concorsi 78.000 posti. Sì. Già se ne trova 85.000, c'è già una differenza di 8.000. Però c'è ancora un altro elemento che fa la differenza. I 78.000 posti autorizzati sono distribuiti in 3 anni. Per il concorso, quindi della non subito per il 2020, per la primaria infanzia. Quindi materialmente avremo altri 2 anni di pensionamenti, altri 3 anni nella secondaria, e siccome ogni anno come pensionamenti va via più o meno in media 30-35 mila, vanno via 35.000 unità di personale, perché abbiamo un'età elevata, un po' tutto il personale docente ha superato abbondantemente i 60 anni e quindi la scuola è destinata ad avere sempre questi numeri. Quindi programmazione, poi c'è la volontà di non fare una procedura insieme al concorso, che chiaramente lo individuiamo come modello diciamo procedurale corretto, però c'è la procedura per concorso per soli titoli e anche quindi la possibilità di riconoscere ai precari che lavorano da più di 3 anni una selezione specifica per soli titoli con prove finali. Invece la ministra ancora una volta, insieme a tutto il governo, devo dire anche tutta la maggioranza, si è opposta a quella che per noi era un'iniziativa funzionale all'attività ordinata per l'inizio dell'anno. Poi si aggiungerà tutto il caos del Covid, che sappiamo benissimo in alcune realtà sarà molto complicato da gestire. Quindi lei dice, Gissi, appunto, che la scuola a settembre sarà già alle prese con i protocolli di sicurezza, con le linee guida per prevenire il contagio, e in più con tutte queste cattedre vacanti. Beh, Azzolina, nei giorni scorsi, quando ha fatto la conferenza stampa annunciando le linee guida, ha parlato anche di assunzioni. Comunque sentiamo questo passaggio, l'assunzione a tempo determinato. È evidente che se abbiamo bisogno di più spazi, abbiamo bisogno anche di più organico. Abbiamo bisogno anche di più docenti e anche personale non docente. E allora distinguiamo. Con i soldi che stiamo mettendo adesso possiamo assumere fino a 50.000 persone, tra docenti e personale ATA, a tempo determinato, in più rispetto al normale organico che abbiamo tutti gli anni e che non abbiamo tagliato. Ci tengo a dirlo, non è stato tagliato né l'organico di fatto né l'organico di diritto rispetto agli anni scorsi, malgrado la denatalità che è in corso. E poi le assunzioni a tempo indeterminato. E poi quest'estate assumeremo a tempo indeterminato, sulla base dei pensionamenti che avremo, sia il personale docente sia il personale non docente. Per non parlare dell'enorme investimento che abbiamo fatto sui concorsi, migliaia di posti dati a concorso. E in ultimo, sempre per il personale, il cuneo fiscale. A luglio gli stipendi del personale docente cresceranno. Avremo tra gli 80 e i 100 euro in più. E poi, Gissi, come diceva lei, appunto anche previsti questi concorsi per 78.000, che però, come diceva, distribuiti su tre anni. Ma quindi è stato un accumulo questo, in realtà, di posti vacanti, man mano, di anno in anno, di mancanza di programmazione, come dice lei, alla fine si è arrivati a questi numeri. Ma c'è anche stato il problema di non trovare candidati, perché quando nel 2016 ci sono stati concorsi hanno visto le graduatorie esaurite in un periodo brevissimo. I concorsi poi sono sempre molto lunghi, farraginosi, e hanno lasciato quindi tanti posti vacanti. E quindi per non chiudere... ci sono docenti di sostegno, quello che ci deve preoccupare sono i docenti di sostegno, eppure ce li abbiamo specializzati, ce n'è più di 14.000. Dovremmo la soluzione per chiudere, secondo lei? La soluzione è un processo di reclutamento come quello organizzato per la PA. Dopo tre anni di servizio c'è la possibilità della pubblica amministrazione, c'è la stabilizzazione. Perché per la scuola no? Se ci sono i candidati con titolo, guardi il sostegno, sono tutti docenti che hanno superato un percorso selettivo con tanti esami svolti presso le università, sono già pronti e sono stati formati dallo stesso ministero. Mm-hmm. Invece c'è una formula un po' più ideologizzata che vincola probabilmente sia il governo, ma proprio alcune componenti in modo molto specifico. Però l'emergenza c'è e quindi speriamo che una volta per tutte, insomma, speriamo, si riesca a risolvere la scuola. Infatti abbiamo fondamentale, lanciato l'allarme dirlo. Abbiamo voluto fare perché tutte le famiglie e tutte le componenti devono comprendere che c'è un vero e proprio allarme. Sì. E come diceva qualcuno tanto tempo fa che abbiamo apprezzato, costi quel che costi, va fatto. Per l'istruzione. Chiaro. Serve un cambiamento. Siamo d'accordo. Veramente radicale. Grazie Maddalena Gissi. Non dobbiamo pensare a Draghi soltanto. Grazie Maddalena Gissi, ricordo segretaria nazionale CIS Scuola. Buon lavoro, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vi aggiorno sulla partita Torino-Lazio, è finita 1-2, quindi in favore della Lazio. Però adesso torniamo su questioni piuttosto pregnanti e sulla decisione dell'Unione Europea, anche questa era attesa, riapre da domani le sue frontiere esterne a 15 paesi terzi, Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay, c'è anche la Cina che però è soggetta alla conferma della reciprocità. Fuori sono rimasti gli Stati Uniti e su questo saluto Matteo Villa, bentornato, Villa, analista dell'ISPI per l'area Europa. Grazie, buonasera. Buonasera. Quindi la lista però verrà aggiornata ogni due settimane, quindi potrebbe man mano cambiare in base, no, ai criteri legati alla situazione epidemiologica, eccetera, Villa. Sì, potrebbe cambiare e non solo, dobbiamo ricordarci che è una lista di raccomandazioni, quindi se è vero che comunque tutti i ministri l'hanno firmata, hanno detto sì, ok, l'applicheremo, questi 15 paesi, diciamo, apriremo le frontiere a questi 15 paesi, già in realtà ci sono un po' di resistenze che iniziano a emergere e iniziamo però già a vedere tutto questo quadro complicato di relazioni in cui in effetti i 26 paesi dell'area Schengen, quindi l'area di libera circolazione all'interno della quale in Europa si può viaggiare senza in teoria esibire il passaporto anche per quelli che arrivano da fuori dall'Europa, di fatto non è coordinata, no? Quindi proviamo a immaginarci se qualche governo decidesse di aprire alla Cina, poniamo un'Ungheria che dice io apro lo stesso alla Cina, nessun altro glielo potrebbe impedire, già ci possiamo immaginare la confusione che avrebbe se una persona cinese volesse venire in Italia e passasse dall'Ungheria e poi dall'Austria e arrivasse da noi, quindi insomma c'è un po' questo di confusione che purtroppo avviene perché appunto non possiamo forzare gli altri paesi a aderire a queste linee guida. Villa, tra l'altro rimangono fuori anche Russia e Brasile, no? A parte l'ira di Trump che adesso sta cercando, insomma, anche lui o di chiudere o di mettere nuovi dazi sui prodotti europei, adesso vediamo come reagirà, ma dicevo anche Russia e Brasile sono rimasti fuori al momento. Sì, Stati Uniti, Russia, Brasile, India, di fatto tutti i paesi che hanno dati o poco affidabili o comunque invece con contagio in crescita, credo sia una decisione sana e sensibile in questa fase, ovviamente poi i paesi possono anche risentirsi perché diventano una serie di paria, però in realtà in questo momento abbiamo aperto solo a 15 paesi, quindi sarebbe anche da invitare forse a riflettere a tutti i paesi che pensano di prendere precauzioni o contromisure rispetto a noi, rispetto al fatto che comunque ci vuole prudenza sempre. Quindi sì, diciamo che una lista di paesi ingenera sempre delle tensioni, e oggi l'abbiamo visto. Trump ovviamente non poteva non arrabbiarsi, perché certo, sappiamo come è fatto. Villa, tra l'altro, appunto per quanto riguarda le differenziazioni, già noi come Italia è stato deciso che manteniamo la quarantena per i paesi extra Schengen, no? Speranza ha detto, il ministro della Salute, non vanifichiamo i nostri sacrifici. Quindi sì, sì, ha detto proprio questo, una cautela. Ovviamente da un lato l'Italia ha bisogno di riaprire per far ripartire il turismo, siamo già in piena stagione inoltrata e sappiamo che batosta stanno prendendo gli operatori del settore. Dall'altro, giustamente il ministro dice, ci vuole cautela, quindi non soltanto il nostro paese ma molti paesi in Europa stanno già annunciando misure precauzionali addizionali, ricordandoci appunto questo, che se qualcuno, per esempio la Danimarca ha detto, noi non vogliamo aprire a tutti quei 15 paesi della lista, ma se qualcuno atterra in Germania e poi si reca verso la Danimarca possiamo farci poco. Ecco, di fatto appunto questa mancanza di coordinamento dall'alto e un po' le cautele, gli equilibri che vanno trovati fanno sì che, insomma, dovremo vedere cosa succederà nelle prossime settimane per capire bene a quanti paesi apriremo e come funzionerà, se davvero tutti rispetteranno le regole che ci siamo autoimposti. Insomma, un coordinamento complesso, però vedremo, ci aggiorneremo con Matteo Villa nei prossimi giorni, vediamo quali sono le decisioni poi dei vari paesi. Grazie intanto Matteo Villa, buon proseguimento e buona serata. Grazie a voi. Grazie, ricordo analista dell'ISPI. Invece al nostro Dario Ricci chiediamo di analizzare la partita in corso, perché l'altra è già finita, quella della Lazio, no Dario? Eh sì, ed è importante aggiornare sul risultato, visto che la Lazio rimane pienamente in corsa per lo scudetto grazie al 2-1 in rimonta sul campo del Torino. Torino che era passato in vantaggio dopo appena 5 minuti per un calcio di rigore realizzato da Belotti dopo un fallo di mano di Ciro Immobile. Quel Ciro Immobile, sempre più capocannoniere del campionato, che era al 48esimo, ha siglato su assist di Luis Alberto l'1-1. Poi è arrivato il gol decisivo al 72esimo di Marco Parolo, una conclusione deviata da Bremer alle spalle del portiere granata Sirigu. In questo istante la Lazio è a un solo punto, anzi no, a due, perché la Juventus sta pareggiando appunto dai bianconeri. Bianconeri in campo a Marassi contro il Genoa da poco meno di 10 minuti, risultato ancora fermo sullo 0-0. E lo ricordiamo, una curiosità, nella Juventus c'è anche in campo quel Pjanic che appena ieri è stato ceduto al Barcellona. Scherzi di questa stagione così estemporanea, diciamo così, Roberta. E così estiva, se possiamo dirlo, ormai. Grazie. Sì, sì, insomma, si è arrivati dal calcio fino a questo punto, non certo per motivi piacevoli, ma insomma, quindi ci sono tutte queste storture. Grazie Dario Ricci. Caro Dario, buon grazie proseguimento di partita. Noi ci stiamo per lasciare, lo sapete, come al solito ci aggiorniamo poi alle 22.